2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 18 aprile 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Tutte le informazioni sono online, oppure se volete potete inviarci una email e vi risponderemo con tutte le istruzioni per downloadare e scaricare la nostra trasmissione settimana dopo settimana, e in questo caso si tratta di un download legale. Oggi parleremo di download illegali perché, forse molti di voi sapranno, c'è stata una sentenza che alcuni definiscono storica, poi vedremo nel corso degli anni se l'aggettivo è corretto. Alcune notizie prima di entrare nel tema della puntata, in uno dei temi della nostra puntata. Oggi parleremo anche di computer, di netbook, di alcuni modelli di business che stanno cambiando, di tecnologie che stanno cambiando, sicuramente un'altra parte molto interessante del nostro programma. Parliamo di Skype, che molti di voi lo sapranno, di proprietà di eBay. Andrà sul mercato nel 2010. eBay ha annunciato lo scorporo e la conseguente quotazione in borsa della società, ammettendo anche che finora non ci sono state le sperate sinergie con tutto il mondo eBay, quello delle aste online, quello dei pagamenti con PayPal. eBay aveva, lo ricordiamo, acquistato Skype nel 2005 dai fondatori, investendo circa 3 miliardi di dollari. Oggi Skype è il sistema di telefonia Voice over IP più utilizzato, ci sono altri sistemi che offrono grosso modo le stesse caratteristiche di Skype, ma questo è sicuramente il più popolare, alcuni dicono anche il più efficiente tecnicamente. Oggi Skype ha 388 milioni di clienti, quindi sicuramente un valore interessante, ma che finora eBay non è riuscita a far crescere come desiderava. Abbiamo più volte parlato di micropagamenti e delle tecnologie che oggi permetterebbero una rivoluzione nei sistemi di pagamento e del conseguente cambiamento di molti modelli di business. Pensate ad esempio allo sviluppo che potrebbero avere alcuni servizi in rete o sui telefonini. Quale sviluppo potrebbe avere la versione mobile dell'e-commerce, quello che gli esperti chiamano M-commerce? La M sta per mobile commerce. Bene, ora interviene nel dibattito anche l'antitrust italiano, secondo cui i costi delle carte prepagate sono ancora elevati se si considerano gli strumenti offerti dal sistema bancario. L'autorità garante della concorrenza del mercato, l'antitrust appunto, ritiene che siano possibili risparmi per i consumatori con l'ingresso nel mercato delle società di telefonia mobile nel settore dei micropagamenti. E questa è una notizia importante, perché pensate quale rivoluzione ci potrebbe essere se e quando le società di telefonia mobile, che hanno milioni di clienti, potranno gestire pagamenti oltre a tutto ciò che oggi possiamo fare con la nostra SIM, con il nostro telefonino. Poter pagare con il telefonino aprirà ad un mercato molto molto vasto. Una notizia che arriva dai palazzi, dalla Camera dei Deputati in modo particolare, che trasmetterà in via sperimentale a partire da lunedì, in diretta sul proprio sito internet www.camera.it, le conferenze stampa dei deputati che si tengono a Montecitorio. Già la Camera trasmette online sul sito web tutti i lavori dell'Aula e delle commissioni, una opportunità interessante per seguire quello che viene detto al Palazzo e per valutare a volte la competenza, a volte l'incompetenza di chi parla. Quindi insomma è una buona notizia, e diamo atto alla Camera dello sforzo che sta facendo da alcuni anni verso la trasparenza. Ed ora parliamo del caso Pirate Bay, la baia dei pirati, uno dei siti internet più visitati al mondo. Pensate che qua parliamo di 25 milioni di utenti in tutto il mondo. Questo è un sito internet dove è possibile trovare, rintracciare i file torrent per la rete BitTorrent. Che cosa significa? Fondamentalmente Pirate Bay è una sorta di motore di ricerca che mi suggerisce dove trovare file di canzoni, film, videogiochi, migliaia di altri contenuti che io posso scaricare sul mio computer. Attenzione, stiamo parlando per la maggior parte dei casi di file che io sì posso scaricare sul mio computer, ma illegalmente, quindi la cosa non è legale nel momento in cui scarico qualche cosa che è coperto dal diritto d'autore. Dicevo, posso scaricare questi file con BitTorrent, che è uno dei più popolari file di condivisione e scambio di file. Parliamo di sistemi peer-to-peer. Va detto che stiamo parlando di una sentenza di cui vi darò qualche dettaglio tra poco, una sentenza di primo grado, e quindi il sito internet rimane aperto se volete provare e visitare thepiratebay.org. Il sito funziona come ieri l'altro. Dunque, un tribunale svedese ha condannato i quattro responsabili del sito, uno a 28 anni, due a 30 anni, l'altro un po' più anzianotto, è solo un finanziatore, i veri ideatori sono tre, sono stati condannati ad un anno di carcere e ad una multa da 2,7 milioni di euro per complicità in violazione della legge sul diritto d'autore. La sentenza è sicuramente dura, ha guadagnato le prime pagine di molti siti internet e anche di molti giornali, se ne parla in TV, se ne parla naturalmente anche alla radio. Come dicevamo, Pirate Bay non ospita canzoni o film, videogiochi, insomma non c'è alcun contenuto sul proprio sito, ma si limita a suggerire dove andare a trovare questi contenuti in rete. Le industrie della musica, dei film, insomma le musiche dei contenuti che hanno portato in tribunale i creatori di The Pirate Bay dicevano, e il tribunale ha dato loro ragione, che questo era sufficiente per considerare questi colpevoli. Addirittura era stato chiesto un risarcimento quattro volte superiore a quello concesso, ma comunque questa è una sentenza che è per l'industria dei contenuti di soddisfazione. Enzo Mazza è presidente della Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Ma il commento è positivo sotto due profili, anzitutto perché Pirate Bay era un sito molto importante, un sito torrent, quindi accessibile anche dall'Italia, sotto indagine anche in Italia dalla Procura di Bergamo, che aveva già emesso dei provvedimenti in passato, e soprattutto per un aspetto fondamentale che è quello della partecipazione, diciamo, all'illecito, cioè l'aver favorito l'attività illecita, che è un fondamento oggi necessario per provare comportamenti illeciti svolti non direttamente dagli utenti, ma da società o soggetti che contribuiscono a questa attività illegale, mettendo a disposizione strutture o, nel caso specifico di Pirate Bay, un vero e proprio sito organizzato per temi, argomenti e soprattutto playlist musicali scaricabili in qualsiasi istante. Voi vi aspettate che questa sia la prima di una serie di sentenze, cioè che sia cambiato un po' il vento? Ma noi pensiamo che in questa fase in generale ci si stia rendendo un po' conto che il futuro dei contenuti digitali passa assolutamente attraverso la rete internet, e quindi il business del futuro dei contenuti sarà fondamentalmente un business online. A questo punto mi sembra che sia chiaro a tutti che non è possibile poter far decollare qualsiasi tipo di business, dalla musica al cinema, all'editoria, in rete, se non si mettono fuori gioco operatori che svolgono attività illegale. Ci sono altri siti, altri soggetti, altre tecnologie che in qualche modo funzionano ancora oggi e che immaginiamo forse nel futuro possono essere colpite? Quindi state guardando, dopo aver archiviato, si fa per dire, il caso Pirate Bay, ad altro? Ma in generale tutto il fenomeno dei siti tracker, come cosiddetti, quindi siti che consentono di scaricare contenuti, stanno emergendo in maniera molto forte. Questo di fatto sta sostituendo il peer-to-peer tradizionale, quindi lo scambio tra utenti, siti che favoriscono quindi attraverso sistemi di linking la possibilità di scaricare musica, ma soprattutto film, perché poi il fenomeno adesso si sta spostando in maniera molto pesante verso la cinematografia. Quindi intere cinematografie sono disponibili e sono scaricabili a siti torrent, non potrebbero essere trasferite nello stesso modo attraverso delle reti peer-to-peer da utente a utente. Quindi su quel fronte probabilmente si combatteranno le prossime sfide, le prossime battaglie. Questo è il commento di chi rappresenta il mondo della musica in Italia. Naturalmente qua stiamo parlando di contenuti che, come diceva del resto anche Mazza, non si limitano alla musica, ma stiamo parlando di video, di videogiochi e di molto altro. Qualche settimana fa abbiamo parlato addirittura di libri elettronici, di ebook, e il nostro ospite ci diceva quanto materiale già oggi si trova online sulle reti illegali. Questo anche dovuto al fatto che i produttori e gli editori di libri sono lenti al cambiamento, e quindi non si trova legalmente questo contenuto, e quindi gli utenti mettono in circolazione su reti illegali questo tipo di prodotto. I fondatori del sito The Pirate Bay non si preoccupano tanto al momento, anzi, insomma, commentano anche in modo divertente questa sentenza. Sul sito hanno scritto che alla fine tutto andrà bene, quindi di stare tranquilli. Ieri hanno dichiarato che per la sentenza definitiva ci vorranno comunque 5 anni e che quindi incontreranno giudici più competenti sul piano tecnico. Per ora sul sito hanno anche aggiunto e hanno scritto che, come in tutti i migliori film, gli eroi poi perdono all'inizio, ma alla fine riescono comunque a ottenere una vittoria epica. Ma vogliamo continuare a parlare di questa sentenza e dei temi di dibattito che con questa sentenza si riaprono. Un parere interessante è quello dell'avvocato Andrea Monti, uno dei più autorevoli esperti italiani in materia. Dal punto di vista del diritto puro, questa sentenza non dice niente di nuovo. Stabilisce semplicemente che chi è complice di un reato merita di essere punito. Il problema serio è nella declinazione pratica di questo principio, perché mi rimane abbastanza complicato capire come sia possibile affermare che il gestore di un motore di ricerca, atipico come The Pirate Bay, ma sempre motore di ricerca è, possa essere responsabile in questo caso di concorso in violazione del diritto d'autore, mentre invece non lo sono gli altri motori di ricerca, quelli tradizionali, quelli che utilizziamo quotidianamente e attraverso i quali è pur sempre possibile, anche incidentalmente, reperire contenuti o materiale illecito. Certo, le loro regole sono più strette, consentono o prevedono di cancellare il contenuto illecito una volta segnalato, però da un punto di vista tecnologico non c'è una grande differenza fra un motore di ricerca per dei file BitTorrent come The Pirate Bay e dei file di qualsiasi altro tipo come quelli che si trovano utilizzando appunto i normali motori di ricerca. Il nostro programma è disponibile anche su internet, sul nostro sito web www.radio24.it. c'è un sistema molto semplice da utilizzare che è il servizio podcast, e vi consigliamo appunto di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Stiamo parlando del caso Pirate Bay. Tra poco cambieremo argomento, sarà con noi l'amministratore delegato nonché presidente di Acer, del gruppo Acer, Gianfranco Lanci, una chiacchierata molto interessante sull'evoluzione tecnologica partendo da alcune novità presentate da pochi giorni. Dunque, con noi in questa parte, parlando del caso Pirate Bay, l'avvocato Andrea Monti. Mi sembra, avvocato, che in questa sentenza venga data parecchia importanza alla tecnologia con cui vengono commessi questi illeciti. Illeciti peraltro commessi dagli utenti e non da Pirate Bay, che è stato condannato, lo ricordiamo, per complicità. Fondamentalmente si dice: tu, Pirate Bay, metti sul sito una serie di suggerimenti, di tracce, per poi andare a trovare canzoni che la gente, utilizzo le canzoni giusto per essere semplice, canzoni, film, eccetera eccetera, che poi la gente va a scaricare, quindi sei complice di questo illecito. Ecco, mi sembra che venga comunque data importanza anche alla tecnologia, avvocato. Sì, infatti anche questo è un aspetto che sarà interessante approfondire quando saranno note le motivazioni della sentenza, perché non è così automatico che il gestore di un motore di ricerca sia consapevole che ciascun utente che lo sta interrogando lo sta facendo per commettere degli atti illeciti. Ora, sarebbe da un punto di vista tecnico-giuridico più corretto prima accertare l'esistenza di un reato tramite un processo vero e proprio e solo dopo che è stato accertato il reato presupposto, cioè la messa in condivisione di file protetti da copyright, rivolgersi verso il gestore del motore di ricerca per verificare se fosse o no consapevole di questo o se addirittura avesse facilitato la commissione di questi reati. Mi sembra molto strano, ancora una volta, che si continui a cercare di criminalizzare una tecnologia in sé senza preoccuparsi di principi di diritto che tutto sommato esistono da parecchio tempo. Adesso chiudiamo The Pirate Bay, domani ci sarà un altro strumento che consentirà di fare magari la stessa cosa in modo ancora più efficiente. Basta buttare l'occhio a quello che potrebbe succedere creando delle reti wifi locali o addirittura Bluetooth che nascono e si spengono in modo del tutto imprevedibile e non intercettabile. Allora cosa andiamo a fare? Una legge apposta per vietare l'uso del wifi? E chi stabilisce qual è il limite fra l'utilizzo lecito e l'utilizzo illecito di una tecnologia in sé? Il problema è quello di regolare i comportamenti delle persone, non gli strumenti utilizzati dalle persone. Cioè, infatti, chi dice che appunto archiviato il caso Pirate Bay, ammesso che poi venga archiviato, perché vedremo poi anche i successivi gradi di giudizio, se ci saranno, come probabilmente saranno, c'è chi dice che appunto archiviato questo caso vedremo poi proseguire il mondo, questo fenomeno del download illegale senza che quasi nulla sia successo. Negli ultimi anni abbiamo visto altri successi dell'industria cinematografica e discografica, ma vediamo che il fenomeno di fatto difficilmente viene fermato. Lei che cosa ne pensa da questo punto di vista? Io direi che il dato di esperienza è che la legge si è dimostrata del tutto inefficace nel trovare un bilanciamento tra la tutela degli interessi delle major dell'intrattenimento, la tutela dei diritti degli utenti e la protezione del comparto industriale del mondo telco. D'altra parte, il numero enorme di comportamenti che giornalmente si registrano ci fa capire che non è come vuotare l'oceano come un secchiello. Ecco, questa è un po' la metafora che mi viene in mente. Cercare di regolamentare questi fenomeni è come cercare di vuotare l'oceano con un secchiello. Ci si può provare, ma il risultato è facilmente immaginabile. Forse è arrivato il momento di pensare a un sostanziale cambio di orientamento che vada nella direzione di una autoregolamentazione concordata fra major dell'intrattenimento e operatori del settore e associazioni di consumatori, e soprattutto vada verso la modifica di alcune leggi che attualmente sia a livello comunitario sia a livello italiano impediscono la creazione di questi accordi bilaterali. Se non si fa questo, si continuerà ad avere lo stesso approccio dell'eccesso di velocità in autostrada. Ogni tanto qualcuno perderà un po' di punti sulla patente, ma questo non ha provocato un sostanziale abbassamento della velocità media degli automobilisti. Qua stiamo parlando di contenuti digitali, musica prevalentemente, film, eccetera, eccetera. Quello di cui stiamo parlando, anche se appunto il tema del diritto d'autore è un tema molto importante, forse in questo caso preponderante, ma tutto ciò coinvolge anche, come alcuni dicono, ma volevo anche il suo parere, il tema delle libertà digitali, della democrazia digitale? Sì, certamente. In questo campo va però fatta una premessa. Nessuno, non io perlomeno, sostiene il diritto all'esproprio proletario della proprietà intellettuale altrui. In altri termini, chi crea proprietà intellettuale ha tutto il diritto di trarne l'utile economico che desidera, posto che ci sia qualcuno che è disposto a pagarlo. Altro è, in nome di questo diritto a essere pagati, invocare delle norme, dei comportamenti che eccedano il rispetto di principi generali. Che cosa voglio dire? In ambito comunitario è in discussione una direttiva che istituirà le cosiddette squadre di investigazione comune, che nei casi di violazione della proprietà intellettuale consentono ai titolari di diritti d'autore di affiancare dei pool investigativi a quelli delle procure e delle strutture preposte dalla legge. È paradossale che le vittime di mafia o le vittime di stragi non abbiano questa facoltà e i titolari di diritti d'autore sì. Oppure, in nome della tutela del diritto d'autore, si sta cercando di forzare la mano. Ci sono casi recenti anche in Italia, come il famoso caso Peppermint, si sta cercando di forzare la mano agli operatori telefonici perché consegnino i dati di tutti gli utenti sospettati di commettere violazioni. Bene, la tutela di un diritto non può passare per la sistematica violazione di diritti di libertà che, insomma, hanno un rango sicuramente superiore. Questo lo ripeto senza voler essere anche minimamente connivente con chi viola la legge. Il punto è che ci sono anche gli innocenti in giro per la rete e sarò ingenuo, ma continuo a pensare che sono la stragrande maggioranza. Certo, anzi su questo siamo convinti e sicuramente è così. Io ringrazio l'avvocato Andrea Monti per essere stato con noi, perché questi, seppur accennati così velocemente, sono temi molto importanti che sicuramente ci accompagneranno nei prossimi anni in una discussione che speriamo poi abbia sbocchi anche in nuove regole che cerchino di equilibrare tutti gli interessi. Grazie, a presto, buon lavoro. Grazie. Sicuramente parleremo di questi temi anche in altre puntate di 2024, sono ben accetti, anzi sono interessanti le email che ci avete spedito anche in questi giorni e ci interessa leggere i vostri pareri. Bene, scriveteci a 2024@radio24.it. Tra poco parleremo di netbook, di PC, di tecnologie legate al mondo del silicio. Parleremo anche di batterie e proprio su questo punto vorrei lasciarci in questa prima parte di 2024 sentendo quello che recentemente ci ha detto Jim Wong, che è responsabile dello sviluppo dei prodotti all'interno di Acer, proprio sulla tecnologia delle batterie e sullo sviluppo che vedremo o non vedremo nei prossimi anni. Up to now, that's the in last two decades. Finora, diciamo negli ultimi due decenni, tutte le tecnologie con cui sono state costruite le batterie per i computer portatili hanno avuto come primo obiettivo quello della sicurezza. E ancora oggi, con la tecnologia agli ioni di litio, non siamo arrivati ad un prodotto stabile. Questa è la ragione per cui non abbiamo visto e non prevediamo nei prossimi anni un grande incremento di capacità. Ed eccoci di nuovo insieme a 2024, il nostro programma va in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate anche online sul nostro sito internet www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, 2024@radio24.it. Dicevamo poco fa, se la tecnologia delle batterie non cambia di molto, e come avete sentito appunto dalla voce di Jim Wong di Acer, non cambierà molto nei prossimi anni, beh, l'unica soluzione è cercare di realizzare prodotti che consumano meno, quindi che abbiano un'efficienza energetica migliore, anche perché i consumatori vogliono usare i telefonini, gli smartphone, ma soprattutto i computer portatili per almeno una giornata. Per i telefonini qualche passo avanti è stato fatto, anche se ultimamente soprattutto gli smartphone sono sempre più potenti, hanno schermi sempre più grandi e quindi per le batterie sono dolori, comunque qualche passo in avanti è stato fatto. Beh, fino ad oggi sono molto pochi i computer portatili con durate delle batterie superiori alle 3-4 ore. Stiamo parlando di durata effettiva, perché un conto sono le durate dichiarate dai produttori, poi quando la si utilizza, dipende anche come naturalmente viene utilizzato un computer, la durata in laboratorio quando si provano i computer effettiva è sempre inferiore. Comunque, dicevo, sono poche le batterie che durano più di 3-4 ore, questo è un argomento molto sentito appunto dai consumatori. Negli ultimi giorni Acer ha annunciato una serie di novità, tra queste anche prodotti che promettono durate di 8-10 ore, ma non c'è solo questa evoluzione tecnologica, nella chiacchierata che abbiamo fatto con Gianfranco Lanci, che è amministratore delegato di Acer. Chiedendo all'utente direttamente viene fuori un elenco di feature, di caratteristiche che più o meno importanti, e talvolta quello che noi riteniamo importante non lo è dal punto di vista dell'utente, mentre altre cose che riteniamo poco importanti lo sono. Vabbè, una cosa che viene fuori chiarissima è la durata delle batterie. Qualunque utente è disposto a sacrificare o anche a pagare qualcosina in più per avere un computer che lavori per un numero di ore superiore a 6. E noi con questo annuncio siamo in grado di offrire praticamente ai prezzi medi, nel senso che non sta nel quello che noi definiamo normalmente mid-end, soluzioni che vanno da 8 a 10 ore di batteria, che vuol dire quello che noi chiamiamo one day, all day computing. Non ha più la necessità di andare in giro con il suo cavo può caricare tranquillamente il computer di notte. Quali sono gli altri desideri? E gli altri desideri è abbastanza interessante. Subito dopo vengono criteri di sicurezza, può essere fingerprint piuttosto che qualunque altro criterio di sicurezza che consenta di limitare l'accesso ai propri dati e al proprio computer. La camera, mentre una volta era tutto sommato un optional, oggi qualunque utente percepisce come quasi uno standard il fatto che ci sia una videocamera sul computer, anche se poi molti non la usano. La connettività, qualunque utente dà per scontato che computer abbia connettività, quantomeno Wi-Fi, ed è oltretutto interessante come, viste le esperienze precedenti, molti utenti ritengono non indispensabile la connettività 3G semplicemente perché ancora pensano di poter usare il dongle, ma semplicemente perché pensano che se all'interno del computer debba costare uno sproposito, quando probabilmente oggi con l'evoluzione i costi diventano addirittura inferiori a quelli della chiavetta. Tornando alle batterie, il risultato che avete ottenuto, l'avete ottenuto lavorando sul risparmio energetico o esistono nuove tecnologie per cui ci sono delle batterie più potenti? No, la batteria non è più potente, la batteria è una batteria standard, non abbiamo, anzi anche perché dovendo limitare anche la dimensione, sono batterie standard di dimensione standard ed è il motivo per cui siamo riusciti a fare prodotti nell'intorno dei 2 centimetri. Abbiamo lavorato solo e soltanto sul risparmio energetico, sia di tutti i componenti, quindi dalla CPU al display al disco, a tutti i componenti. Senta, a proposito di prezzi, c'è chi dice che entro la fine dell'anno, comunque entro l'estate, alcuni produttori, e Acer viene indicato come uno dei produttori, faranno vedere al mercato un computer portatile, chiamiamolo come vogliamo, netbook, eccetera, eccetera, a meno di $100. No, oggi non è raggiungibile. Non c'è la possibilità di raggiungere meno di $100, ma neanche meno di $200 oggi. Cioè, oggi assumendo performance accettabili, cioè senza compromettere senza compromettere la performance, secondo me quando pensiamo ai famosi 299 siamo veramente molto vicini al limite. Magari tra 6-12 mesi potremo scendere, ma non ci sono molte possibilità di andare oltre, se non compromettendo la dimensione del display o qualche altra cosa. Ma a quel punto ci avviciniamo troppo al telefonino, quindi No, ma non solo, a quel punto diventa, cioè quando uno vede prezzi al di sotto di una certa soglia, sono prezzi a cui normalmente uno ripulisce gli inventari. Non so fino a che punto siano un buon acquisto dal punto di vista dell'utente, insomma. Lei dice già da qualche tempo che ormai il computer è diventato una commodity, quindi sicuramente il valore anche di questo prodotto sta scendendo sempre di più, non solo quello economico. Vediamo che il mercato sta trasformando anche alcuni modelli di vendita di questi prodotti. Ci sono ad esempio delle offerte di servizi che sono collegati al PC, quindi quasi quasi io non pago più il PC ma pago il servizio. Ecco, lei vede in futuro trasformarsi questa industria un po' come si è trasformata quella della telefonia mobile? Una parte dei PC, diciamo, di quelli che noi chiamiamo mobile internet devices, siano netbook o smartphone già succede perché fa parte della telefonia mobile, una parte di questi sicuramente andranno su quei canali, cioè sugli operatori, quindi sono venduti con il solito discorso del piano mensile, eccetera. Sarà una fetta importante sicuramente in futuro, e aiuterà anche secondo me ad allargare il mercato, perché più siamo in grado di offrire agli utenti piani con costi mensili ragionevoli, insomma, più l'utente può essere sempre connesso, più riusciamo a far crescere il mercato da un punto di vista di numero di unità, e anche per gli operatori c'è la possibilità di ampliare il mercato da un punto di vista di vendere dati. Lei ha detto che vede nei prossimi mesi, nei prossimi anni, un ulteriore consolidamento del mercato. Concretamente che cosa vuol dire? Vuol dire che se uno oggi guarda, ci sono ancora troppi player in questa industria, con volumi relativamente troppo bassi. Per essere profittevoli servono certe economie di scala. Certe economie di scala vuol dire volumi di un certo livello. Non potrà non succedere che ci sia merge, acquisition, consolidamento di vario tipo, soprattutto fra i player di livello medio-piccolo, insomma. Ma secondo me oggi ce ne sono solo due o tre che hanno volume tale da poter sostenere la crescita. Tutti gli altri, secondo me, non sono nella situazione di poter sostenere una grande crescita se non tramite processi di integrazione. Senta, guardando sempre il mercato, ci spiega molto sinteticamente e molto brevemente che cosa sta succedendo? Cioè, vediamo ancora una crescita forte del mercato dei portatili, una stagnazione sostanziale del mercato dei PC da tavolo, dei PC da casa, e poi cosa sta succedendo tra famiglie e imprese? C'è chi dice che nel futuro saranno le famiglie, saranno i consumatori finali quelli che muoveranno più il mercato, sia dal punto di vista hardware ma anche dal punto di vista software, anche del traffico in internet. Ma su questo non c'è dubbio, secondo me. Il mercato, se uno guarda mobile, notebook e netbook, ancora secondo me la crescita è ancora nell'ordine di due digit, probabilmente intorno al 15%. I desktop non stanno crescendo, probabilmente sono in crescita negativa, tra almeno 10 e meno 15, nel senso che per cui la crescita totale del mercato secondo me oggi è relativamente piccola, semplicemente perché la crescita dei notebook è compensata dalla decrescita dei desktop. Sul discorso di come crescerà il mercato in futuro, secondo me non c'è dubbio che consumer continuerà a crescere, continuerà a essere la parte maggiore, diventerà sempre più grande. Perché la necessità di essere sempre connessi viene prevalentemente dal consumatore. L'Unione Europea sta spingendo i produttori di telefonia mobile fondamentalmente a trovare uno standard unico per i caricabatterie. Questo è un problema che esiste anche nel mondo dei computer portatili. Lo state considerando o in futuro arriverà anche qua una pressione dell'Unione Europea? No, stiamo considerando quantomeno di unificare dal nostro punto di vista il power supply, l'adattatore per tutti i notebook nostri sia lo stesso. C'è da tenere presente che probabilmente la vera differenza per quanto riguarda i telefonini e i computer è che i telefonini normalmente viaggiano con batterie che sono abbastanza simili da un punto di vista di amperaggio, perché mentre i computer viaggiano con 4-6 celle, con vari livelli di amperaggio a seconda della dimensione della batteria e a seconda anche della potenza del computer, è leggermente più complicato unificarli tutti. È fattibile forse a livello di 2-3, anziché averne centinaia. Quello che stiamo facendo è quello di guardare al nostro interno, di almeno di averne uno solo o massimo due. E questa era la voce di Gianfranco Lanci, amministratore delegato di Acer, un gruppo che nel mondo è numero uno nel segmento dei netbook, numero due in quello dei notebook, cioè dei computer portatili, e numero tre a livello globale nel mondo dei PC, dei computer, considerando i computer come la somma, questo mercato come la somma dei netbook, dei notebook, quindi computer portatili, e anche i classici PC da tavolo. Prima di parlare di silicio, potremmo dire così, di tecnologie che entrano sempre più spesso nel mondo dei computer, parliamo anche dei modelli di business che cambiano. Prima abbiamo accennato a questa tendenza che cominciamo a vedere anche in Europa, cioè quella di far pagare il servizio e non più il prodotto. Succede già da un po' di tempo, soprattutto in alcuni mercati, forse meno in Italia, per il mondo della telefonia mobile, e sta cominciando a succedere anche nel mondo dei computer. Esistono in Europa alcune offerte che appunto prevedono il pagamento del servizio, tipicamente della connettività ad internet, che sia fissa o che sia mobile, e all'interno di questo servizio pago a rate anche un prodotto che tipicamente è un computer portatile o un netbook. Una delle ultime offerte è stata presentata da Vodafone per il mercato italiano. Ne abbiamo parlato con Davide Tacchino, che è responsabile dei terminali di Vodafone. Sì, abbiamo presentato e stiamo lanciando in questi giorni il Vodafone Mini PC, il Samsung NC10 Internet Inside, che è un piccolo computer compatto, ma comunque con un display di tutto rispetto, 10 pollici di display, 160 giga di memoria, quindi di nuovo una memoria molto estesa, e la connettività integrata, ovvero sia senza bisogno delle chiavette classiche, il computer si può far connettere ad internet con un semplice click, e a quel punto poi la connessione è attiva. Quello che dice è vero, e sostanzialmente noi stiamo spingendo questo prodotto con un'offerta che include il prodotto e il traffico. Per 24 mesi il cliente paga 39 euro al mese, attualmente c'è appunto questa offerta che è valida per diciamo i prossimi 30 giorni, in cui con 39 euro al mese il cliente si porta a casa sia il computer che la connettività internet, una connettività sostanzialmente illimitata perché sono 300 ore al mese, 10 ore al giorno. Alla fine dei 24 mesi che cosa succede? Alla fine dei 24 mesi l'abbonamento sostanzialmente scade, il cliente naturalmente si tiene il PC perché il PC è suo, c'è proprio un passaggio di proprietà e non è incomodato d'uso, eventualmente può comprare un altro o rinnovare un altro abbonamento con il PC che è internamente di proprietà del cliente. Voi come vedete il mercato dei netbook? Beh, un mercato che 7-8 mesi fa non esisteva, attualmente stimiamo che sia un mercato da 30-40 mila pezzi al mese e quindi circa 400-500 mila pezzi all'anno, quindi un mercato in fortissima espansione, è un mercato che tuttora cresce, è un mercato in cui ormai sono presenti dei prodotti veramente di tutto rispetto, paragonabili ai notebook che erano già presenti sul mercato, ma naturalmente di dimensioni più grandi e anche di prezzi naturalmente maggiori. Possiamo ipotizzare che nei prossimi anni, nei prossimi mesi, forse già addirittura, molte delle vostre offerte avranno collegato al servizio anche un prodotto, quindi oltre che gli smartphone, i telefoni, anche PC veri e propri, altri netbook? Ma PC veri e propri dovremmo valutare e fare le opportune diciamo valutazioni economiche. Sicuramente c'è una tendenza, che la vediamo sul mercato italiano, di includere il prodotto nell'offerta di traffico, e questa è una tendenza che non andrà a diminuire ma anzi ad aumentare, quindi possiamo aspettarci in futuro sicuramente nuovi prodotti, nuove offerte, sia nel mondo dei mini PC, dei netbook, sia nel mondo dei telefoni. Ebbene, avete sentito, la novità è un piccolo netbook che viene venduto all'interno del, che si compra a rate pagando il servizio di connettività alla rete. Questo è un netbook che integra la classica chiavetta che utilizzavamo per collegarci ad internet sfruttando la rete di telefonia mobile. Ebbene, questa tecnologia è stata integrata nel caso specifico di questa offerta. Il prodotto è un prodotto Samsung con un chip Samsung, ma sicuramente il più grande produttore di tecnologie basate sul silicio per telefonia mobile ed oggi sempre più anche per PC e questi piccoli computer come i netbook è Qualcomm. Abbiamo parlato dell'evoluzione di questa tecnologia con Enrico Salvatori, che è General Manager di Qualcomm Europa. Ci sono due passaggi fondamentali. Prima di tutto la disponibilità della rete in banda larga in mobilità, il mobile broadband, quindi avere accesso radio ad alta velocità, quindi questo è un elemento fondamentale disponibile dalla rete, dagli operatori mobili sul territorio. Secondo passaggio fondamentale è la disponibilità di I primi prodotti che sono i modem USB, le chiavette, che hanno già dimostrato l'importanza della connettività nei computer per poter dare accesso in qualunque punto. Successivamente siamo adesso nella fase della, diciamo, evoluzione seconda generazione, che in aggiunta, non in sostituzione, ma in aggiunta al fenomeno delle chiavette, dei modem USB, porta il modulo di accesso radio 3G integrato all'interno del computer. Quindi noi Qualcomm abbiamo però sviluppato un prodotto che porta direttamente all'interno del computer preintegrato il modulo di accesso radio 3G alle reti UMTS ad alta velocità che sono oggi disponibili in Europa, negli Stati Uniti. Il nostro modulo è tra l'altro multistandard, quindi questo gli permette di fare un roaming internazionale esteso. I vostri interlocutori normalmente sono aziende di telefonia mobile. Oggi si aggiungono a questi interlocutori produttori di computer. Come cambiano le cose? È un settore per noi, diciamo, nuovo, però chiaramente un settore molto consolidato. In realtà quello che sta avvenendo sul mercato è che i prodotti, da un lato telefonia di fascia alta, quindi gli smartphone, e dall'altro i laptop, stanno convergendo in un nuovo settore di dispositivi che sono a metà fra i due, perché da una parte c'è un'evoluzione della connettività che viene dagli smartphone e dall'altro c'è un'evoluzione dell'integrazione dei netbook, laptop che diventano netbook e poi altre definizioni vengono anche chiamate smartbook, che fondamentalmente dipende dalla dimensione del display che portano con loro tutta l'esperienza dell'internet, quindi delle applicazioni internet, dell'accesso ad internet fatto in linea fissa che ora diventa in mobilità. Voi non siete tra diciamo, i principali produttori di moduli GPS, ma state entrando anche in questo mercato perché avete presentato recentemente un modulo GPS proprio per un computer portatile, dico bene? Noi siamo tra i primi produttori di componenti GPS per quanto riguarda la telefonia. La nostra soluzione è una soluzione integrata all'interno del componente di silicio che rappresenta il motore, l'engine del telefono, quindi non abbiamo una soluzione esterna. Questo approccio molto integrato oggi ci permette di offrire una soluzione anche per i laptop, per i netbook, perché noi offriamo connettività con integrata la funzione di GPS, quindi localizzazione, che permette ed abilita, ed è, qui torniamo di nuovo al mobile internet, abilita applicazioni nuove, applicazioni internet in mobilità per l'utente finale. Parleremo anche nella prossima puntata e la prossima settimana di altre tecnologie basate sul silicio che realizzano nuove macchine, che permettono la realizzazione di nuove macchine, in modo particolare Nvidia, e torneremo a parlare in qualche modo anche di Acer, perché è stato Acer a presentare questo primo prodotto. Nvidia, che è un produttore di chip dedicati al mondo grafico, ha preparato una serie di novità che, messe all'interno di un piccolo computer basato su tecnologie tipicamente utilizzate nei netbook, promette di far funzionare questi piccoli computer con molta più potenza. Ne parleremo nel dettaglio nella prossima puntata. Abbiamo chiuso questa puntata di 2024, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, 2024@radio24.it. Vi ricordo anche che la nostra puntata è disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. C'è anche la possibilità di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast e quindi vi consigliamo di sottoscrivere il servizio per poter scaricare automaticamente la puntata, quindi il file MP3 della nostra trasmissione. Grazie a voi per l'attenzione, grazie a Luigi Borghi in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.